Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, buon inizio di settimana, sarete oggi con me, poi da domani torna Sebastiano Barisoni. Dall'altra parte del vetro abbiamo oggi Roberta Frisani in regia, come sempre Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e in redazione, e i numeri sono sempre i soliti. 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp, e poi se ci volete anche vedere c'è la pagina Facebook di Radio 24, quella di Focus Economia, andiamo in diretta anche là, in una diretta video nella quale, se credete, potete anche commentare, e proveremo a leggere anche qualche messaggio da là. Di che cosa parleremo oggi? Beh, innanzitutto c'è questa classifica, la classifica del Sole 24 Ore, quella annuale sulla qualità della vita nelle città, una classifica che tiene conto di moltissimi elementi, di moltissimi indicatori per questa classifica, che sono degli indicatori economici, ma non solamente economici, riguardano anche l'ambiente nel quale viviamo, la qualità appunto dell'ambiente, la criminalità, la velocità della giustizia e via dicendo. Domina la scena, ormai lo sapete perché ve l'abbiamo raccontato, a questo abbiamo dedicato anche un Radio Day qua su Radio 24, domina la scena Belluno, e domina la scena un po' in generale tutto l'arco alpino, perché Belluno scalza Aosta da questa classifica. L'anno scorso era Aosta la prima in classifica. Registriamo un netto peggioramento di molte città liguri, in particolare Genova che perde oltre 20 posizioni, Savona che ne perde oltre 35, magari risentiremo tra un attimo, ne perde 34, risentiremo tra un attimo anche un passaggio dell'intervista che abbiamo realizzato in effetto giorno con il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, che ci spiega anche perché secondo lei la città è scesa così tanto rispetto all'anno scorso e quali sono i dati. C'è in generale da fare una riflessione appunto sulle nostre città, perché sulle nostre province, perché certamente la classifica del Sole 24 Ore, le singole classifiche scomposte per indicatore, tra l'altro sul sito del Sole 24 Ore trovate anche la mappa interattiva se volete andare a curiosare, vedere in che posizione si trova la vostra provincia, fotografano certamente una realtà e fotografano soprattutto, al di là delle singole province, ambiti territoriali più vasti che non sono necessariamente quelli della regione o appunto delle due province che sono vicine, ma appunto ambiti territoriali più vasti, come complessivamente l'arco alpino, che ripeto domina la scena dal lato della qualità della vita, alcune aree del sud in particolare, mentre altre si salvano e altre migliorano. Pensate solamente nel centro Italia ad Ascoli Piceno, che fa veramente il botto, è la città che migliora di più in assoluto, la provincia che migliora di più in assoluto, ed è in cima alla classifica dal lato dell'innovazione. Un luogo impensato sotto questo aspetto, e quindi ci sono degli elementi interessanti da analizzare, da studiare, soprattutto cercare di dare, ed è quello che faremo qua, un quadro generale. Parleremo ancora della web tax. Ci siamo stati la settimana scorsa, è un tema che abbiamo toccato, questa proposta che arriva dal senatore Massimo Mucchetti, abbiamo solamente accennato quello che contiene una sorta di tassazione aggiuntiva per le transazioni che avvengono con questi grandi colossi del web, che spesso hanno sede in hanno delle sedi o fatturano in paradisi fiscali, in molti casi del fatturato che fanno qua c'è poca traccia per il fisco italiano, ci si prova a muovere, lo prova a fare il Parlamento italiano con la manovra che è in corso di discussione in Parlamento, con questa web tax proposta da Massimo Mucchetti, una web tax che rischia in realtà, e lo abbiamo in parte già raccontato, di avere un impatto pesante, soprattutto per gli utenti, per chi va a utilizzare questi servizi. Perché? Perché tu piazzi una tassazione di quel tipo per queste aziende, e poi il rischio è che queste aziende lo facciano pagare in termini di quanto fanno pagare il servizio, di incremento del costo del servizio, esattamente per le aziende italiane e per i professionisti italiani. Non solo, ma da quel che si è capito, ma non si è capito bene per come è scritta la norma, potrebbe anche darsi che questa tassazione vada a ricadere anche per le transazioni nostre, di tutti noi cittadini, insomma non riguardi solo il business to business, ma anche il business to consumer, ossia la vendita direttamente anche di prodotti, molto semplicemente, oltre che di servizi ai singoli cittadini. Vedremo di fare un po' di chiarezza. Soprattutto c'è un tema di fondo, che muoversi singolarmente come paese in una situazione come questa può risultare assai inefficace, innanzitutto perché Bruxelles ti può venire addosso e dirti che questo tipo di tassazione non è regolare e crearti un problema da quel punto di vista. In secondo luogo, questa è una questione globale, perché i cosiddetti over the top, pensate solamente a Google, tanto per fare un esempio, oppure a Facebook, hanno un respiro che è globale, non è un respiro locale. Allora forse l'idea migliore sarebbe prendere l'iniziativa a livello di 4-5 grandi paesi europei, che poi rappresentano il cuore vero dell'Europa, e muoversi da questo lato. Comunque parleremo anche di questo, e anche su questo, come sempre, le vostre idee, i vostri pensieri sono i benvenuti. Infine, Bitcoin è un tema che ogni tanto affrontiamo, magari non abbastanza spesso, ma ha visti i risultati che sta avendo la criptovaluta in quest'ultimo periodo, vale la pena tornarci. Il Bitcoin veleggia verso il traguardo dei $10,000, ieri aveva superato la soglia dei 9,000, oggi si è spinta fino a $9,700, segnando l'ennesimo record intraday, e qua ci si divide. C'è chi sostiene che questa è solamente una bolla, c'è chi sostiene invece, sono in particolare i sostenitori di Bitcoin, ma non solamente loro, che siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione. Tanto per quello che rappresenta Bitcoin, ossia una nuova valuta che fa meno dell'intermediazione delle banche, quanto soprattutto per la tecnologia che c'è sotto Bitcoin. La tecnologia che c'è sotto Bitcoin, e su quella in realtà sono d'accordo tutti, che si chiama blockchain, e avremo modo di parlarne, è una tecnologia che permette sostanzialmente transazioni sicure e verificate tramite tutti i nodi della rete che partecipa a queste transazioni. Mettiamo che ci siano 30 persone che fanno parte di questa rete, la transazione avviene tra due persone, la traccia di questa transazione rimane in tutti e 30 i computer, ok? E questo vuol dire che sono transazioni estremamente sicure e livelli di crittografia molto elevati. Tant'è vero che pezzi del sistema bancario e non solo del sistema bancario stanno iniziando a capire la potenzialità di blockchain e stanno iniziando a fare delle prove, a cercare di comprendere che cosa c'è sotto e soprattutto come utilizzarlo ai loro fini. Per quanto riguarda i mercati stanno peggiorando negli ultimi minuti. FTSE MIB che cede lo 0,92%, FTSE OSHARE lo 0,81%, negativo anche il resto d'Europa, ma Milano è senza dubbio la peggiore, e anche su questo arriveremo. 349-238-6666 per SMS e messaggi su WhatsApp. Le notizie in breve di oggi. Oro in rialzo dello 0,5%, $1,294 l'oncia, petrolio in calo, i cali sono per quanto riguarda il Brent dello 0,4% a $63,5 al barile, è molto più pesante il calo del WTI. Quasi 2 punti percentuali a $57,7 al barile. Di Bitcoin abbiamo detto, dopo questa ubriacatura da shopping del fine settimana, addirittura della Black Week, abbiamo il Cyber Monday, quel giorno dedicato agli acquisti scontati. Quando si fanno acquisti online, secondo alcune stime il 44% degli americani effettuerà acquisti durante il Cyber Monday su Amazon. E ancora dagli Stati Uniti c'è notizia: il gruppo editoriale Time, proprietario del magazine Time oltre che di Sports Illustrated e People, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la vendita al gruppo Meredith Corporation per una cifra di 1,8 miliardi di dollari. L'accordo era stato sostenuto dai miliardari fratelli Charles e David Koch, noti per il loro orientamento conservatore. Dall'Europa ci sono poche cose oggi, vi diamo solamente le dichiarazioni di Pierre Moscovici, che dice che non sarà candidato alla presidenza dell'Eurogruppo giovedì prossimo, e il mandato del prossimo presidente però dovrà avere un quadro temporale contenuto, in quanto al più tardi entro il rinnovo della commissione previsto nell'autunno del 2019 dovrà farsi la fusione tra questa carica e quella di commissario agli affari economici. Per l'Italia, torneremo sulla manovra, ma molto rapidamente vi dico che l'esame in aula è slittato a mercoledì mattina alle 9:30. Nel frattempo prosegue il lavoro in commissione, è arrivato il via libera alla web tax, vale 114 milioni dal 2019 ed è un'imposta del 6% sui ricavi digitali. Questo fondo per il sostegno dei caregiver familiari, che cosa si vuol dire con caregiver? Sono coloro che si occupano del lavoro di cura dei familiari non autosufficienti in casa, un fondo ristretto oggettivamente, almeno per il momento, perché sono 60 milioni di euro suddivisi su tre anni, 2018, 2019 e 2020. Che poi in realtà si tratta, non vengono dati questi fondi a queste persone, si tratta è la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale. È arrivato l'ok all'emendamento sulle pensioni, quello che stoppa l'aumento dell'età per 14.600 lavoratori che hanno svolto professioni gravose. Arriva anche un credito d'imposta su IMU, TASI, tari e affitti per le librerie indipendenti fino a 20.000 euro. E da notare che la cosiddetta tassa Airbnb, ossia la cedolare secca sugli affitti brevi al 21% introdotta con la manovra bis, dice l'antitrust, appare idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali tra i diversi operatori, con possibili ricadute negative sui consumatori finali dei servizi di locazione breve. Quindi, secondo l'antitrust, questa norma non va bene. E veniamo al primo tema di giornata, poi torneremo ovviamente sulla manovra, ve l'ho detto, e parleremo anche di reddito di inclusione, perché oggi è stato presentato ufficialmente, ma veniamo al primo tema di giornata, che è la classifica sulla qualità della vita. Ha ragione l'ascoltatore che ci scrive via WhatsApp, ed è una cosa alla quale avevamo già pensato, ne avevamo parlato, per chi l'avesse ascoltato oggi effetto giorno ne avevamo parlato, perché un altro ascoltatore ci aveva scritto più o meno la stessa cosa. dice: beh, è curioso che Belluno, la provincia di Belluno, sia prima per qualità della vita e c'è una corsa dei comuni ad andarsene dalla provincia di Belluno, a partire da Sappada, che come sapete dovrà lasciare, salvo nuovi ricorsi davanti alla Corte Costituzionale, proprio la provincia di Belluno, per, dopo un referendum e dopo un lungo iter legislativo che è durato sostanzialmente 10 anni, dovrà passerà al Friuli Venezia Giulia. Ce ne sono altri 4-5 che hanno votato in quell'area e che vorrebbero passare al Friuli Venezia Giulia, ma credo che là c'entri poco la qualità della vita, c'entra di più l'autonomia e i ponti d'oro che vengono fatti dal Friuli Venezia Giulia ai comuni che lasciano e rientrano nella regione. Dunque, Belluno Regina 2017 della 28esima edizione, sul podio salgono Aosta, vincitrice nel 2016, e Sondrio. Nei primi 7 posti ci sono solo province alpine. Aldo Bonomi, direttore dell'Istituto di Ricerca Aster e editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professor Bonomi. Buonasera a voi. Eccoci qua. Allora, inizierei da qua, perché proprio l'argomento dal quale lei parte nel commento che firma oggi sul quotidiano, sul Sole 24 Ore, che è questo arco alpino che ha un dominio assoluto su questa classifica della qualità della vita. Che cosa ci racconta, professore, questa cosa? Beh, devo dire una prima osservazione. Le classifiche di solito si leggono, è ovvio, in verticale. Io ne ho dato una lettura cercando di fare una rivoluzione dello sguardo e di guardarle in orizzontale. Se si guarda in orizzontale questa classifica del Sole 24 Ore, la si scompone e ricompone. Non c'è dubbio che al primo posto sono ormai anni. Quegli indicatori ci dicono che c'è quello che io chiamo il distretto alpino, che lei ha appena menzionato, sul quale però una riflessione va fatta, perché non sono assolutamente banali le osservazioni che ci fanno gli ascoltatori, perché è vero che Belluno è sempre al primo posto, è vero che Trento è sempre al primo posto, però è anche vero che in quel territorio la fibrillazione territoriale molto spesso è più alta che altrove, e quindi teniamolo in conto rispetto a questo. Certo, gli indicatori, che sono soprattutto quelli della qualità della vita rispetto alla sicurezza, rispetto al risparmio, però anche rispetto al risparmio bisogna stare attenti rispetto a questo, perché alcuni segnali di inclinatura ci sono alcune banche di quei territori che stanno scricchiolando, e quindi anche quella dimensione del risparmio non è tutta così. Non c'è dubbio che se si guarda l'ambiente ed altre tematiche, non lo dice lei, professore, non lo dice lei, lo dico io, perché so a cosa sta pensando a Creval, tanto per fare un esempio, insomma. Quindi alcune isole felici forse non sono più così felici, sono contaminate dai processi di globalizzazione, di finanziarizzazione, eccetera eccetera, però non c'è dubbio che però gli indicatori ci dicono che quei territori sono ancora territori ad alta qualità della vita. Però poi subito dopo c'è Milano, e da qui viene subito un'osservazione che molto spesso alcuni colleghi mi hanno fatto, mi hanno detto: ma, virgolette, tu vivresti più felicemente a Milano o vivresti a Belluno? Punto di domanda. Non c'è dubbio, è un problema in cui le variabili della qualità della vita dipendono anche da altre variabili, perché certamente non c'è dubbio che Milano è più di altre città inserite dentro i grandi processi dei flussi del cambiamento. Però se noi collochiamo Milano al centro di una dimensione orizzontale, troviamo quell'area produttiva da Torino a Trieste, dove Torino arranca perché ovviamente la crisi del fordismo ha colpito di più, il nord-est vede tutta una serie di città che sono in lento recupero rispetto a processi di crisi, e non c'è dubbio quindi che abbiamo il distretto alpino, la dimensione della, virgolette, dell'asse Torino-Trieste, dove metterei anche la Via Emilia, assolutamente un'area produttiva da questo punto di vista, però ad esempio tutte queste aree qui ad alta produttività hanno una grande questione ambientale che io riassumo banalmente dicendo, quando li guardiamo dall'alto vediamo la nube di smog che, virgolette, copre la pianura padana, e quindi da questo punto di vista la qualità della vita non può essere definita eccellente. C'è una questione ambientale irrisolta rispetto a questo. Poi si scende giù nell'Italia di mezzo, l'Italia dei discreti produttivi, o anche, come ha svelato l'Istat nelle sue recenti ricerche, dei distretti della grande bellezza, quindi la cultura, eccetera, che tiene. Poi abbiamo Roma, con ovviamente un declassamento nella classifica che inficia di sé tutto il suo territorio, sì. E poi abbiamo l'asse Napoli-Bari, dove io segnalo due tracce di speranza e alcune di disperazione, sì. Non c'è dubbio, la traccia di speranza è Matera, capitale europea della cultura, che fa un balzo assieme a Potenza, e ovviamente invece abbiamo la situazione di Taranto che tira giù. Sì. Nel Mezzogiorno, come sempre, sappiamo che la classifica verticale ci dice che le città ultime sono sempre queste, ovviamente, però abbiamo alcuni segnali di speranza rispetto a questo. Palermo che incomincia a salire, Cagliari che incomincia a salire, quindi una geografia che non va presa alla lettera, e quindi stracciarsi i capelli per la posizione, sì. Oppure inorgoglirsi per la primazia. Detto in termini, sì. Molto sintetici, tutti quanti hanno i loro problemi, ovviamente dentro una grande trasformazione, sì. Quella fotografia va presa come un dato su cui riflettere, sì. E su come capire oggi ci poniamo rispetto ai, sì. Grandi cambiamenti. E su come impostare magari anche delle politiche future. Su due ultime cose la voglio coinvolgere velocemente, perché so che poi ci deve lasciare. La prima è l'argomento più generale, che lei in parte ha già sottolineato, che ha senso fare la classifica per province, ma in realtà ha senso, come lei ci diceva, guardare ad aree un po' più vaste complessivamente, che vanno anche, travalicano anche i confini regionali. Cioè, in questo senso, anche il ragionamento di Sappada rientra in quest'ambito, perché alla fine poco cambia tra Belluno e la provincia vicina in Friuli Venezia Giulia, è lo stesso arco e la stessa area vasta, per così dire, che ha lo stesso livello di sviluppo e la stessa qualità della vita, e questo da una parte. Dall'altro, a me è incuriosito questa Ascoli Piceno, che si colloca in cima alla classifica per lavoro e innovazione, ed è quella che cresce di più in assoluto. Ci racconta qualcosa più in generale su quell'Italia centrale della quale dicevamo? Due annotazioni. La prima è ovvio che sono totalmente d'accordo con lei che le analisi territoriali bisogna svilupparle ormai per piattaforme territoriali. Sono piattaforme territoriali che, virgolette, competono nella globalizzazione o subiscono i flussi della globalizzazione. Non c'è dubbio che bisogna ragionare in termini di piattaforma che sta nel Mediterraneo, con tutti i problemi annessi e connessi, di piattaforma dell'Italia di mezzo, di piattaforma produttiva da Torino a Trieste, di piattaforma alpina. Stiamo ragionando di piattaforme, tra parentesi anche questo riferimento alle province, lo dico con un pizzico di malizia, quando poi le province in quanto tale, come dimensione amministrativa, sono, virgolette, lì sospese nel limbo, il problema è ragionare sull'area vasta rispetto a questo. Dopodiché vengono avanti anche altre dimensioni di area vasta, basta pensare alle costituende aree metropolitane con tutto ciò che questo significa. Due, il discorso dell'Italia di mezzo è Ascoli Piceno. Ascoli Piceno va visto, ovviamente, anche a me ha colpito molto rispetto a questo, bisogna capire quali sono i processi produttivi che sono cambiati. Non dimenticherei, ovviamente, che da tanti punti di vista quei territori dell'Italia di mezzo sono attraversati oggi da un dramma e da, virgolette, una opportunità di futuro. Il dramma ovviamente sta dentro il discorso terremoto e che ha sconvolto l'Italia di mezzo, sì. Creando una faglia rispetto a questo. Non c'è dubbio che lì c'è il bisogno di rapportarsi a un'idea di futuro che forse deve indicare una dimensione di progetto e di vita ulteriore rispetto a questo. Non c'è dubbio che l'Italia di mezzo, soprattutto mettendo un mix tra attività culturali, beni culturali, turismo e imprese, ha la possibilità di riuscire a sviluppare un cambiamento. Anche questo tutto ovviamente in chiaroscuro. Io la ringrazio, grazie ad Aldo Bonomi per essere stato con noi, le auguro una buona serata. E qua qualche ascoltatore dice: le classifiche lasciano il tempo che trovano, perché la percezione della qualità della vita in una città è soggettiva e direttamente proporzionale al reddito. Ma qua non è la percezione, attenzione, qua in questo gruppo editoriale abbiamo calato giù 42 indicatori, ragazzi, che tengono conto ricchezza e consumi, lavoro e innovazione, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza con i tempi dei processi. Non è che è proprio una cosa che siamo andati dai cittadini a chiedergli come stai, ti trovi bene a Belluno? E il cittadino ha detto sì, mi trovo bene a Belluno, e quello di Roma ci ha detto no. È una cosa fatta con molta sostanza, vi invito tra l'altro a guardarlo sul Sole 24 Ore. Sono 42 indicatori, molti specifici per ogni settore. Per esempio gli indicatori economici sono 6 o 7 e sono oggettivi, cioè non sono a intervista, non siamo andati a sentire le persone a chiedergli come stanno, perché poi no, è chiaro che quelle sono indagini deviate, per così dire. E all'ascoltatore che invece dice: ha senso fare una classifica annuale quando alcuni cambiamenti richiedono lustri se non decenni? E infatti la classifica del Sole 24 Ore va avanti da molti anni, e andate a cercare negli anni a vedere come sono cambiate le posizioni delle città. Dunque fermiamoci, sentiamo il meteo e poi i mercati. Focus Economia. Non mi soffermerò su tutti i messaggi, SMS, WhatsApp che arrivano dicendo: ah sì, però a Belluno che noia, e quindi sto bene anche a Roma, anche se è una città complicata. Ho capito, qua stiamo parlando più in generale di qualità della vita, perché vive a Belluno probabilmente è una bella vita, quindi non ci soffermiamo su quello. Invece mi interessa un po' di più, e magari sarà da ritornarci successivamente, sulla questione Veneto, Friuli Venezia Giulia. La grossa differenza, ci scrive Marco dal Veneto, e su questo ha perfettamente ragione, per quanto riguarda Sappada, è che il Friuli è una regione autonoma, il Veneto non ancora. La montagna veneta ha sempre sofferto e continua a soffrire il fatto di essere in mezzo a regioni a statuto speciale. Marco ha perfettamente ragione, è un grande tema ed è il motivo per il quale un tot di comuni del bellunese vuole passare al Friuli Venezia Giulia, perché poi in termini di qualità della vita non è che cambi tanto, cioè Sappada passerà dalla provincia di Belluno, che è prima nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, alla provincia di Udine, che è decima su un centinaio di province, quindi francamente non cambia molto. Veniamo ai mercati, Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao Simone, buonasera. Ma che brutto inizio di settimana, Milano la peggiore, no? Tra le borse europee. Sì, un brutto inizio di settimana che arriva, che segue una settimana positiva sui listini azionari, ma che è figlia soprattutto di un andamento dell'euro come non lo si vedeva da praticamente 2 mesi, perché un euro abbondantemente sopra 1,19 dollari e in certi momenti è sembrato puntare a 1,20, vuol dire i massimi da metà settembre, e in parte sicuramente per una situazione forse più gestibile della crisi politica tedesca, quindi l'apertura anche di Angela Merkel a una grande coalizione che potrebbe profilarsi e trovare quindi una stabilità di governo in Germania, in parte anche per la debolezza stessa del dollaro, che è atteso da passaggi delicati come innanzitutto l'appuntamento con la riforma fiscale dell'amministrazione Trump che approda in Senato, ma anche con le audizioni sempre al Senato di quello che dovrebbe essere che sarà il nuovo presidente della Federal Reserve Powell, quindi una debolezza del dollaro che unita a un euro un po' più apprezzato, e questo si è fatto sentire su molti titoli di gruppi esportatori. Sì, allora FTSE MIB che chiude praticamente sui minimi di seduta, meno 1,07%, FTSE Share meno 0,97%, Parigi meno 0,56, mezzo punto percentuale di calo, Francoforte meno 0,46%, Londra meno 0,28%, con il Dow Jones che è in perfetta parità e lo Standard & Poor's 500 è appena sotto la parità. E questo il quadro. Altro tema di giornata, sicuramente il petrolio, lo abbiamo detto, petrolio che scende oggi a tre giorni dal vertice OPEC a Vienna, nel quale si decide se prolungare oltre le soglie produttive. Andiamo adesso, Andrea, sui singoli titoli o quantomeno sui singoli settori. Dicevi, penalizzati titoli esportatori, titoli delle aziende esportatrici, esempi. Sì, Buzzi Unicem per dirne una, ma anche CNH Industrial, dei gruppi più esposti verso gli Stati Uniti, ST Microelectronics, che pure ha avuto indicazioni positive da un'intervista ai giorni scorsi del suo CEO Carlo Bozzotti sulle prospettive dei microprocessori nell'auto elettrica, ma la stessa Leonardo è stata penalizzata. Insieme a questo si sono mossi in negativo i titoli petroliferi, tu ricordavi la correzione del petrolio, e quindi Tenaris e Saipem sono state tra le peggiori del listino, hanno perso oltre il 2%, ma la stessa Eni ha perso l'1% ed è il primo titolo di capitalizzazione per Piazza Affari, e quindi finisce per incidere sull'andamento generale. C'è stato un mix di notizie positive e negative invece per Fiat Chrysler. Andrea, sembra che alla fine che cosa ha prevalso? Perché è arrivata anche la notizia, no, che la Francia potrebbe chiedere 9 miliardi e passa per il Dieselgate. Sì, nel pomeriggio ha finito per pesare sicuramente questa indicazione, questa indiscrezione della stampa francese che tu hai ricordato, unito all'accentuarsi anche per quanto riguarda Fiat ovviamente del tema del dollaro. E mentre questa mattina gli operatori avevano guardato, soprattutto prima che uscissero le indiscrezioni di Le Monde, avevano guardato al ritorno d'attualità del progetto di quotazione in borsa e di scorporo di Magneti Marelli, quindi un progetto di valorizzazione di un asset che normalmente il mercato attende e apprezza per quanto riguarda Fiat Chrysler. Poi le indiscrezioni su cui francese, su cui comunque Fiat ha tenuto a normalizzare, sottolineando di non essere attualmente accusati di alcun reato in questa vicenda e di continuare a collaborare con l'autorità giudiziaria, hanno finito un po' per portare il titolo in area 14,5, sì, quasi un punto percentuale di calo. Unici titoli positivi oggi sul listino principale: Terna più 0,69%, Salvatore Ferragamo più 0,68%, Atlantia più 0,07%, tutti gli altri sono negativi, a partire anche quelli che hanno cali marginali come Recordati meno 0,03%, Mediolanum meno 0,07%, Moncler meno 0,17%, Ubibanca meno 0,20%, Campari meno 0,23%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, il traffico e poi la web tax. Focus Economia. Sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp, sempre la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta, anche video. Veniamo dunque al tema della web tax, che sta dividendo molti. Innanzitutto per la dimensione di gettito ipotizzata, perché insomma, si parla di un centinaio di milioni complessivamente all'anno. Dall'altra parte per i suoi meccanismi. ci sono una serie di rischi, ossia il fatto che questi grandi operatori di mercato, che i cosiddetti over the top soprattutto, ma non solo loro, che non hanno sede in Italia ma una sede estera, e finora almeno in parte hanno sostanzialmente eluso le tasse, scarichino poi sugli utenti il costo di questa web tax, e questo è un elemento. Dall'altra parte si dice, beh, però qualcosa bisogna fare, insomma, no? Diciamo, Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te e ascoltatori. Che la soluzione proposta dal senatore del PD Massimo Mucchetti è quantomeno un po' farraginosa. Ci dai un'idea di come dovrebbe funzionare questa web tax? Beh, tu dici farraginosa e mi piace il termine molto prudente e eufemistico. L'articolo 88 bis, di questo stiamo parlando, della futura legge di stabilità, così come approvato dalla Commissione Finanze del Senato, è un monumento alla semplicità. Sono 55 commi. 55, allora, 55. Per recuperare, come dicevi tu, un'imposizione su un ammontare di transazioni che sono, come sappiamo ormai, nell'ordine di miliardi, stiamo parlando di una tassazione di 130, 150, 180 milioni, ottenuta con un meccanismo che definire complicato e davvero velleitario a una prima lettura, stiamo dando un giudizio ovviamente tecnico, non politico, sulla cosa, è anche qui un eufemismo. Allora, dacci un'idea di come funziona questa cosa. Io leggo la norma e vedo delle perplessità. Per esempio, ogni acquirente, qui chiunque concluda un contratto con gli over the top, dovrebbe darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate secondo le specifiche tecniche che l'Agenzia delle Entrate deciderà nei prossimi 60 giorni con un proprio provvedimento. Superate le 1500 transazioni. E qua già iniziamo. Vi faccio un esempio pratico. Avete uno studio professionale o un'azienda. Avete comprato un spazio di archiviazione cloud su Amazon o su Google, tanto per fare un esempio. Avete improvvisamente bisogno di 2 terabyte in più per archiviare ulteriori dati. E nel momento nel quale le acquistate dovete comunicarlo all'Agenzia delle Entrate. Con le specifiche tecniche che deciderà l'agenzia entro 60 giorni con decreto. E che temiamo già per come possono essere. E su quel denaro che voi date a Google o a Amazon si paga quanto? No, ma non è finita. Da lì partirebbe una sorta di counter, di contatore, arrivato a 1500 operazioni complessive con il medesimo operatore, no? Che può essere, che ne so, Google, mettiamo, arrivata alla 1500esima operazione segnalata dal cliente e ha complessivamente una movimentazione di oltre 1,5 milioni di euro di fatturato, ecco, da quel punto lì scatterebbe il meccanismo della tassazione. Che peraltro sembra una novità, ma è replicato da quello che succede in India ormai da 2 anni. È stato scelto di copiare il modello indiano, cioè un'applicazione di una tassa del 6% sul fatturato. Come si calcola questo fatturato? E siccome il problema è come facciamo a sapere qual è il fatturato di uno di questi player, perché ci sono gli over the top ma anche quelli under the top, come facciamo a calcolare il fatturato a noi che non possediamo l'informazione come agenzia finanziaria? Cioè dobbiamo rimetterci al calcolo di quello che ci viene segnalato dai singoli clienti. Cioè è un meccanismo veramente complicato e la cui efficacia è tutta puramente solo teorica allo stato. Allora, tra un attimo, dopo GR24, torneremo con te per andare un po' più in generale su questo tema, su che cosa rappresenta, su come lo si sta cercando di affrontare anche a livello internazionale e anche a livello europeo. Ma intanto dimmi una cosa, Alessandro, perché nel fine settimana sono circolate voci, indiscrezioni, notizie secondo le quali l'applicabilità di questa norma doveva essere anche per il B2C, il business to consumer, ossia faccio un acquisto su Amazon oppure compro su dello spazio di archiviazione su Google e devo comunicarlo tanto quanto. È così oppure no? E dalla lettura di questa norma, che peraltro è molto lunga come ho cercato di dirti poco fa, sembrerebbe di sì, cioè c'è un onere che ricade anche sul consumatore. È un meccanismo davvero, questa è una peculiarità tipicamente italiana. L'India, poi lo vedremo più avanti se interessa, l'ha risolto in un modo molto più draconiano. Vengono calcolate tutte le transazioni che passano per gli snodi dati del paese e su quelle vengono calcolate le transazioni e si applica un'imposta del 6%. Peraltro qua viene scritto in questa norma italiana che il 6% è al netto dell'IVA, peraltro quindi presuppone anche un'imposizione di IVA che allo Stato non viene recuperata in Italia. Sì, e tra l'altro, se non erro, c'è un meccanismo per quanto riguarda le aziende italiane, perché non è facile nemmeno distinguere le aziende italiane da quelle straniere, quindi c'è un meccanismo di recupero di tasse, cioè di pagamento di questo 6% che poi diventa un credito d'imposta. Mamma mia, allora ci fermiamo, andiamo a sentire GR24, ci ritroviamo subito dopo. Dopo tutti questi meccanismi complicati andremo alla sostanza della cosa. Gianluca Nicoletti dalla stazione di Radio 24. Comunicazione di servizio, il mio viaggio in treno continua, chi volesse saperne di più mi ascolti ogni sabato alle 15. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, seconda parte di Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Stavamo parlando della web tax. Un ascoltatore cattivo scrive: i legislatori sono dei paranoici della norma e siamo il paese della circolare interpretativa, cioè nulla è mai chiaro, tutto opinabile, tutto discutibile, perché prima del GR abbiamo spiegato qual è il meccanismo complicatissimo della web tax che sta entrando in manovra e che entrerà in vigore nel 2019. Questo per risolvere un problema che c'è, è oggettivo, perché nel 2016 i grandi della tecnologia, Amazon, Google, Facebook, Twitter, anche Airbnb se ce la vogliamo mettere dentro, anche se la situazione è diversa, hanno versato poco meno di 12 milioni di euro a fronte di un giro d'affari che ammonterebbe a qualche miliardo. Per dire, secondo uno studio presentato in Senato, Facebook incassa in Italia con la pubblicità circa 225 milioni e versa all'erario, nel 2016 ha versato 260 mila euro. Quindi il problema c'è, è indiscutibile. Siamo sempre con Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore, conclusa con qualche complicazione la labirintica spiegazione della web tax per come è stata concepita. Vorrei venire con te, Alessandro, a cercare di capire come si sta cercando di risolvere il problema a livello più generale, e mi viene in mente, quando penso a un livello più generale, mi viene in mente soprattutto quello europeo, evidentemente. Sì, perché in Europa, ricordiamo, da circa un mese e mezzo fa la Francia e la Germania hanno coinvolto l'Italia e la Spagna, quindi stiamo parlando delle più quattro grandi economie della comunità europea, in un progetto di tassazione, perlomeno a livello continentale, degli over the top dell'economia digitale. Anche lì hanno dichiarato dall'inizio, per scelta politica, che si sarebbe fatto un movimento di opinione, un movimento dei grandi dell'Europa, per arrivare a chiudere, a colmare un gap che, ricordiamo, permette oggi a chi fa economia digitale, ma non solo loro perché sono anche molte multinazionali tradizionali, di eludere le tasse. Qua non c'è nessuno che fa evasione di tasse. Sì, semplicemente sfruttano gli anfratti del mancato coordinamento delle norme internazionali, ma di più, mancato coordinamento delle norme all'interno dell'Europa. Facciamo la sintesi di quello che è successo un mese fa. I quattro paesi dicono: andremo verso una tassazione e subito all'interno dell'Europa, perché il problema noi ce l'abbiamo in casa sotto molti profili, ma soprattutto quello fiscale, e abbiamo i piccoli grandi paradisi d'Europa che dicono: no, noi non faremo, non aderiremo a una tassazione, a una scelta dell'Europa di andare all'imposizione degli over the top digitali. E quindi col veto di Malta, il veto del Lussemburgo, il veto dell'Olanda anche, si scopre che è difficile. E dell'Irlanda, suppongo, no? E dell'Irlanda, che è stato il principale beneficiario, il principale agevolatore di questi grandi multinazionali, che sono, ricordiamolo, nell'Europa occidentale sono praticamente tutte statunitensi e basate in California, ecco, tanto per essere chiaro. Sì, quindi coordinamento molto difficile, e però c'è un blocco forte di paesi europei che intende intervenire, che poi sono il vero cuore dell'Europa, no? Noi, i tedeschi, i francesi. e la Spagna. E allora lì, in modo molto laico, si dice: studiamo un modo coerente e fair di dire che anche bisogna che anche questi paghino le tasse, perché ormai l'economia disruptive, distruttiva, sta sfuggendo a tutte le regole di coesione sociale, di coesione fiscale. Non c'è una soluzione, si sono messi al tavolo i quattro dicendo: come facciamo imposizione su questo? Facciamo i ricavi, perché gli esempi ce l'abbiamo già. Abbiamo parlato prima della tassa digitale dell'India, che è un anno e mezzo che funziona anche piuttosto bene. C'è anche l'Australia che ha deciso di applicare una sorta di imposta sul valore aggiunto al 10% sulle transazioni. Oppure studiamo dei meccanismi alternativi. Ora, faccio anche una previsione, qui non sono cronista parlamentare, per cui prendetemi con le molle. Io non credo che questa versione, diciamo così, Mucchetti del Senato, possa trovare accoglienza in Senato, alla Camera, anche perché alla Camera c'è un grande semplificatore della questione, che è l'onorevole Francesco Boccia, al quale è intitolata anche la prima norma sulla web tax entrata in vigore nella finanziaria dello scorso anno. La soluzione Boccia, adesso io la presento, poi ognuno si faccia un'idea, è molto semplice, ma veramente semplice. Dice: chiunque opera in Italia con a livello di consumatore, a livello di B2B, cioè business to business, gli diamo, a chiunque diamo, una partita IVA e un codice fiscale. Non mi interessa sapere se ha la stabile organizzazione come nell'Ottocento, con la fabbrica, gli operai, certo, gli impiegati, gli scaffali, la contabilità, gli schedari. Operi, vendi i tuoi servizi in Italia, io ti attribuisco un codice fiscale. E dov'è il bello? Che a quel punto lì la radiografia della movimentazione economica è tutta nella piena disponibilità istantanea dell'Agenzia delle Entrate, sì, in questo caso. Posso che alcune, tra l'altro, la stabile organizzazione ce l'hanno, come abbiamo visto plasticamente nella giornata di venerdì con lo sciopero dei lavoratori, certo, di Amazon, insomma, quindi non è che sono tutti solamente digitali. Sì, però vedi, sì, peraltro Amazon penso che anche dal punto di vista fiscale abbia una stabile organizzazione in Italia. Allora mi chiedo: perché l'IVA la paga in Lussemburgo? Cioè, ci sono da coordinare, non sono cose sì, di evasione fiscale, sono di elusione. Coordiniamo tutta questa sì, materia. Dall'altra parte molti ascoltatori ci dicono: sì, è vero però che dall'altra parte, nel momento nel quale io mi metto a questa elusione fiscale che viene fatta, consente a me, utente, molto semplicemente di pagare meno per questi servizi. E questo è il tema che ci pongono molti ascoltatori, anche molto semplicemente tra gli imprenditori, le partite IVA che ci ascoltano. Anche questo è un tema, no? Anche questo è un tema evidentemente che andrà affrontato. Quando c'era l'epoca, che non è finita, delle frodi carosello, era possibile, cioè di non pagamento in sostanza dell'IVA, cioè, attraverso, sì, vari meccanismi, è possibile, sì, comprare dei cellulari. Esatto, si compravano i cellulari, i computer al 20%, sì, meno, perché non pagavo l'IVA. E, cioè, però sì, bisogna stare attento come si affronta questo argomento, perché se andiamo alla convenienza personale di ognuno di noi, a ognuno di noi converrebbe non pagare né l'IVA né le tasse, ovviamente, proprio altrove. Ovviamente. Allora, grazie Alessandro Galimberti anche per questo, grazie, punto e per questo commento. Adesso il traffico e poi continuiamo a parlare di mondo digitale, ma per cambiare completamente argomento, parliamo di Bitcoin, perché continua a macinare record, come abbiamo raccontato all'inizio. Alcuni sono convinti che si tratti di una bolla, altri sono convinti invece che sia qualcosa di destinato a durare, quantomeno durerà fino al 2140, questo almeno nelle ipotesi del suo fondatore, di chi ha redatto il documento iniziale, il documento fondativo di Bitcoin. Comunque ne parliamo tra un attimo. Focus Economia. Facciamo così, parto da una cifra iperbolica. Secondo Jeremy Liu, che fu il primo investitore di Snapchat, un social network che ha avuto una vita, forse avrà una vita breve, perché Facebook sta sostituendo con Instagram molte delle funzioni che prima erano di Snapchat, però diciamo che è stato un bel botto sui mercati Snapchat. È convinto che Bitcoin nel 2030 varrà $500,000 ogni Bitcoin. Fatto sta, noi stiamo al presente. Il presente ci racconta di nuovi record, ci racconta del fatto che si veleggia verso il traguardo dei $10,000 con riflessioni da una parte di chi dice che è una bolla, dall'altra parte chi dice che non lo è. Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alessandro. Buonasera. Buonasera. Che cosa si dice di questa nuova spinta della criptovaluta? Ma credo che a questo punto, visto che ormai se ne parla da molto, la domanda però è sempre la stessa: quanto possono salire? Perché non credo che la gente interessi l'aspetto tecnologico delle blockchain o delle ledger technologies, ma dire quanto durerà? Beh, la risposta non esiste di per sé, perché non basandosi su fondamentali macroeconomici o altri tipici delle valute tradizionali, non c'è una logica di dire se quanto può salire. Bisogna avere due punti di riferimento. Il primo è la scarsità, come dicevi tu prima, lui è dato una scadenza temporale, sono 21 milioni di bitcoin che possono essere prodotti, adesso siamo intorno ai 15 milioni e mezzo grosso modo, quando si arriverà a 21 è ben finito, ma questo è un principio di scarsità, la scarsità favorisce la domanda, quindi tutti vanno dietro a questa, diciamo così, a questa corsa di bitcoin, spingendo nel rialzo il prezzo. Quello che dobbiamo porci noi però sono due domande di questo tipo. La prima: che cosa rappresenta oggi questo valore di $10,000 a pezzo nel contesto degli investimenti finanziari? Niente. Pensate sotto, io alcune cifre per voi. I bitcoin adesso hanno il mercato delle criptovalute di circa poco più di $300 miliardi. L'oro sono $6,000 miliardi. E le commodities agricole in termini di investimenti sono $26,000 miliardi di investimenti, l'edilizia commerciale $29,000 miliardi, arrivo fino alle azioni $55,000 miliardi, quindi noi parliamo di 300, sì. Quindi è una cosa infinitesimale rispetto all'universo degli investimenti finanziari, non è tale da creare nessun problema a nessuno, anche se va a $20,000, ma uno si deve fare una ragione e dire: ma allora che cosa, come posso dire se un prezzo è giusto è una bolla? Giriamo la questione: 450 milioni per il quadro di Leonardo, sono tanti o sono pochi? Ti rispondo per questo motivo, perché molti associano il mercato delle criptovalute al mercato, sì, dell'arte, sul principio della scarsità. Per questo sul motivo, principio della scarsità, per quello, allora, sì, prendiamo il Leonardo, dunque 450 milioni per quel quadro, il mercato totale dell'arte è valutato in $450 miliardi l'anno. Allora, se noi andiamo a prendere, scusatemi, $45 miliardi, sì, dire, 45 miliardi e 450 milioni, sono tanti o sono pochi? Se si pensa che i Leonardo sono tre disponibili, sì, sul mercato, sì, allora è giustificato il prezzo di $45 milioni di dollari per quel Leonardo. Lo stesso principio si può applicare ai Bitcoin. Vale quanto lo vuoi pagare. Questo è il principio. Sì. Se c'è un principio di scarsità, quindi è giusto che è legittimato il fatto, sì, che si voglia acquistare. La domanda in più che possiamo farci oggi è questa: possiamo guardare al passato delle cose che ci diano indicazioni sulla futura performance del Bitcoin? No. Ce n'è una: l'oro. L'oro viene assimilato all'oro, il Bitcoin, oltre che all'arte. Per quale motivo? Scarsità. L'oro sottoterra c'era una quantità limitata, prima o poi finirà, come il Bitcoin. Sì. Allora, pensate questo: durante la crisi del credito, beh, non a caso, sì, non a caso viene utilizzato esattamente per la scoperta di nuovi Bitcoin, perché Bitcoin sostanzialmente non viene emesso, si trova all'interno di stringhe di codice, in sostanza, tramite delle macchine particolarmente potenti si può scavare effettivamente, mine è l'espressione per quando si trovano nuovi Bitcoin a tutti gli effetti, quindi l'analogia c'è anche, era stata anche pensata. Un calcolo, no, che mi ha fatto con un esperto finanziario, lui dice sostanzialmente questo, per avere un riferimento: nel 2007, all'inizio della crisi del credito, l'oro valeva $641 l'oncia. Nel 2011 il prezzo era passato a $1,900 l'oncia per effetto della paura. Il rialzo era di circa il 200%, siamo a 196. Ma è tanto o poco quel 196%? È quasi niente. Pensate, il travaso di soldi dagli investimenti finanziari sull'oro per avere questa differenza di prezzo era solo l'1%. Allora, se applichiamo lo stesso principio al Bitcoin, e questa è la cosa molto divertente, anche se ci fosse un quarto di quella spinta, si calcola che potrebbe raggiungere una capitalizzazione di $400 miliardi dai 300 attuali. Allora, come comportarsi? Quello che la raccomandazione più importante che si può fare è questa: non essendo un prodotto altamente speculativo, in questo senso è privo di punti di riferimento o fondamentali veri immediati, può essere un esercizio di investimento per chi vuole, sì, comprarlo e tenerlo in cassetta, chiamiamolo, sì, così, per vari anni aspettando che possa succedere questa fattispecie, o altrimenti ci si può divertire con le frammentazioni, che sono le frazioni di Bitcoin, e provare a giocare un po' su queste piattaforme digitali. Sì. Io dico sempre, ovvio, una cosa che costa $10,000 al pezzo, sì, non è una cosa per vedove ed orfani. Ovviamente, qua qualche ascoltatore dice, ovviamente, il Bitcoin non costa nulla, l'oro bisogna estrarlo, scavare, colare, ma non, no, ci non vuole vero, un... assolutamente, ma non ci, ci dice, dai, non ci vuole un genio, un pacco e scoppierà presto. Però io le segnalo a questo ascoltatore che in realtà un pezzo enorme dell'attuale economia è basato esattamente su cose impalpabili, come i dati che noi forniamo quotidianamente, per esempio a Facebook, a Google, a tutte le società tecnologiche, e che queste società tecnologiche tirano fuori. Un pezzo importantissimo, fondamentale dell'attuale economia è basato su questo. Più sostanziale però, e qua veniamo a un argomento che è vero che interesserà non tutti, ma è un elemento fondamentale, la tecnologia sottostante a Bitcoin, che è blockchain, che è questa tecnologia per la quale le transazioni, come già vi spiegavo in apertura, vengono validate da ciascun nodo della rete. Quindi diventa una tecnologia molto sicura, non centralizzata, che si pensa addirittura, Alessandro, nel sogno di alcuni che vivono l'utopia digitale con particolare forza, che possa distruggere un giorno addirittura il sistema bancario. Non la metterei così, diciamo così, è corretto in parte, nel senso che la tecnologia alla base dei Bitcoin è una tecnologia estremamente interessante per tutto il settore economico, sì, perché dalle banche alle imprese. Pensate che nella grande distribuzione sono state le prime a utilizzare le Ledger Technologies, la tecnologia base dei Bitcoin, per gli scambi interno fornitori, circuito interno pagamenti. Lo stesso vale per le banche, stanno sperimentando tutti, e le stesse banche centrali. Ogni banca centrale occidentale in questo momento ha allo studio una criptovaluta centralizzata, cioè della banca centrale, perché questo può sicuramente essere un meccanismo parallelo a quello della circolazione della moneta. Ma la concorrenza è molto difficile per un motivo, quello che stavi dicendo tu, e te lo spiego in queste parole qua. La caratteristica di una valuta, al di là delle caratteristiche tecnici della centralizzazione del sistema di, diciamo così, di compensazione della valuta e di scambio, si basa sul principio che io la valuta la uso per comprare beni e servizi. Sì. Ma se questa valuta, chiamiamola così, si rivaluta costantemente nel tempo, da un giorno all'altro, come accade per i Bitcoin, quale incentivo avrò io ad utilizzarlo per comprare beni e servizi? Nessuno. Allora, il paradosso di questa vicenda qual è? Che mentre cresce il valore e la capitalizzazione dei Bitcoin e delle criptovalute, l'economia che può mettere in moto la criptovaluta è sostanzialmente ferma a livello di 5 anni fa. Non cresce il prodotto lordo del Bitcoin perché l'aspettativa di guadagno è più forte dell'incentivo a utilizzarli per comprare beni e servizi. Il meccanismo opposto a quello della deflazione, sostanzialmente. Sì, no, c'è un meccanismo deflattivo indubbiamente in tutto questo meccanismo dei Bitcoin, perché ripeto, il momento che io non lo uso, questo sta creando non lo uso per comprare beni e servizi e quindi mettere in circolazione ricchezza, ma l'uso per la mia ricchezza personale, cade l'elemento, il tessuto connettivo di una valuta. Qualche ascoltatore dice ancora: la blockchain è il futuro di internet e della tecnologia della comunicazione. Non lo sappiamo, di certo sappiamo che è una tecnologia molto importante, tant'è vero che, come ci ha riferito Alessandro Platerotti, come potete leggere tutti quanti, tra l'altro c'è sul sito del Sole 24 Ore uno speciale dedicato alle criptovalute, quindi ce ne stiamo occupando con una certa intensità, è sicuramente una tecnologia sulla quale stanno lavorando in molti. Non a caso ricordo che forse un anno fa l'Economist fece una copertina esattamente su blockchain, esattamente su questa tecnologia, proprio per a simboleggiare l'importanza che sta rivestendo. Su come si possa svalutare la moneta, qualche ascoltatore dice, cosa che fanno regolarmente le banche centrali, esiste un tasso di interesse del Bitcoin, non c'è una bilancia commerciale, un'inflazione di riferimento. La realtà è questa, che la chiamiamo valuta, ma in realtà non è una valuta. In questo momento è un asset finanziario, ve lo dicevo per questo motivo. Sì. Se fosse usato per acquistare beni e servizi, dal prodotto alimentare all'automobile, parleremo, cominceremo a parlare veramente di una valuta, ma poiché non si sta utilizzando per questo, ma solo sull'aspettativa di guadagnare sul rialzo di prezzo, che non è una valuta, quindi potrebbe essere un'azione, sì, o un altro tipo di questo tipo. Questo è il limite. Attenzione comunque, perché non è solo Bitcoin il fenomeno. Allora, molti hanno paura, ma se esplode la bolla, perdiamo tutti? È difficile dire una bolla, perché molti dicono i tulipani. Questi, sì, non sono tulipani, anche perché non esiste solo il Bitcoin. Le initial coin offerings, ovvero la vendita di nuove valute, non Bitcoin, diverse, sì, ha già superato i 4 miliardi di dollari da quest'anno. E sono tante. È possibile pensare che tutti insieme vengano buttate via e si smette di utilizzarle? No, credo che siamo agli albori di una nuova epoca della finanza digitale, e indubbiamente la spinta che c'è in questo momento al mercato è quello di creare dei sistemi di scambio alternativi o di investimento a quelli delle valute tradizionali, che sono appesi alle tensioni internazionali, all'instabilità dei governi, alla liquidità della BCE. Questo è svincolato da tutto e si muove per sua spinta propria. Grazie ad Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore. I ringraziamenti anche a Roberta Frisani in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza in redazione. Focus Economia torna domani, finalmente, ve lo dico, con Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. Libera la voglia di fare.